ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge Akutagawa Ryunosuke. Il filo del ragno. Un giorno Buddha passeggiava da solo, lentamente, intorno al laghetto del loto, in paradiso. I fiori del loto, che si trovavano sulla superficie dell'acqua, erano bianchi, simili alle perle, e i loro pistilli color oro spandevano in continuazione un profumo delizioso. Era di mattino. A un tratto Buddha si fermò sulla riva del laghetto e diede un'occhiata al fondo, tra le foglie di loto che si stendevano sull'acqua. Dal momento che l'inferno si trovava sotto questo laghetto, attraverso l'acqua, limpida come un ametista, si vedevano il fiume Sanzu e il Monte degli Aghi, chiari come attraverso un binocolo. Buddha osservò un uomo, Kandada, che si muoveva insieme con gli altri dannati nel fondo dell'inferno. Quest'uomo era stato un bandito che aveva commesso vari reati, assassini, incendi dolosi. Solo una volta egli aveva fatto un'opera caritatevole. Un giorno, mentre passava in mezzo a un bosco fitto, vide un piccolo ragno che camminava a carponi lungo un sentiero. Immediatamente alzò il piede, stava per ucciderlo, ma pensò: no, no, anche se piccolo, ha la sua vita. È troppo crudele ucciderlo senza ragione. E lo lasciò andare senza fargli male. Guardando l'inferno, Buddha si ricordò che Kandada aveva salvato una volta un ragno. Perciò, per il bene che egli aveva fatto, Buddha volle aiutarlo e dargli la possibilità di uscire dall'inferno. Fortunatamente, vicino a Buddha, su una foglia di loto color giada, un ragno filava la sua bella ragnatela color argento. Buddha allora prese in mano un filo del ragno, delicatamente, e lo fece cadere tra i fiori bianchi simili alle perle, dritto in fondo all'inferno. Qui, dentro il laghetto di sangue, nel fondo dell'inferno, Kandada galleggiava insieme con altri dannati. Dappertutto c'era buio. Inoltre c'era un silenzio di tomba e non si sentivano altro che i sospiri dei dannati, sfiniti dalle varie penitenze. Essi non avevano più la forza di piangere, perciò anche il bandito Kandada si limitava ad agitarsi come una rana in punto di morte, soffocato dal sangue del laghetto. Ma il giorno che Kandada alzò la testa e guardò per caso il cielo sopra il laghetto, vide il filo di ragno luccicante color argento scendere verso di lui dall'alto silenziosamente, come se non volesse essere notato da nessuno, e appena lo vide provò una grande gioia. Aggrappato al filo di ragno, salendo e salendo, potrei senz'altro uscire dall'inferno. Poi, se fossi abbastanza fortunato, potrei arrivare in paradiso e non dovrò più arrampicarmi sul Monte degli Aghi né galleggiare nel laghetto di sangue. Così pensò Kandada e subito afferrò saldamente il filo con le due mani e iniziò ad arrampicarsi energicamente una bracciata dopo l'altra. Poiché era stato un bandito, era abituato a questa impresa, ma... tra l'inferno e il paradiso ci sono alcune decine di migliaia di chilometri. Perciò, anche cercando di arrampicarsi velocemente, non sarebbe potuto arrivare in alto tanto presto. Poco dopo, egli finì tutta l'energia e non poté più andare avanti nemmeno un tratto. Non gli rimase altro che fermarsi e, appeso al filo, guardò giù, lontano. Grazie alla sua fatica, il laghetto di sangue, dove fino a poco tempo prima egli si trovava, non si vedeva più, scomparso, nel buio del fondo. Anche il Monte degli Aghi, debolmente luccicante, si trovava lontano, sotto i suoi piedi. Arrampicandomi con questo ritmo, forse ci vorrà molto meno di quanto avevo pensato per uscire dall'inferno, pensò Candada, sempre aggrappandosi al filo di ragno con le due mani, e rise dicendo «Bene, bene, bene», con un tono di voce che non si sentiva da quando egli era arrivato all'inferno. Ad un tratto si accorse che anche altri innumerevoli dannati lo seguivano arrampicandosi dal fondo, simili alla fila indiana delle formiche. Quando li vide, per un attimo tenne la bocca spalancata come uno stupido, muovendo solo gli occhi dalla sorpresa e dallo spavento. «Questo filo, così sottile, che resiste appena al mio peso, non è possibile che regga tutta questa gente. Se per caso il filo dovesse strapparsi, io stesso, arrivato fin qui, dopo questa immane fatica, dovrei precipitare dritto nell'inferno di prima. Non posso accettare una cosa simile». Mentre così pensava, i dannati, a centinaia, a migliaia, usciti dal laghetto di sangue tutto buio, si arrampicavano freneticamente in fila indiana sul filo di ragno sottile e luccicante. Temendo che se non avesse fatto subito qualcosa il filo si sarebbe spezzato in due, Candada, con voce alta, gridò «Ehi, dannati! Il filo di ragno è il mio! Chi vi ha dato il permesso? Scendete, scendete!» Proprio in quel momento il filo, che aveva resistito fino allora al suo peso, si spezzò d'un colpo nel punto dove era attaccato Candada. In un attimo egli precipitò nel fondo buio, rotolando simile a una trottola. Il filo sottile e luccicante del ragno del paradiso rimase solo in mezzo al cielo, senza luna né stelle. Spezzato. Buddha, sulla riva del laghetto del Loto, guardava tutto quello che succedeva al di sotto del fondo, ma quando Candada scomparve nel laghetto di sangue come una pietra, riprese il suo cammino con la faccia malinconica. Agli occhi di Buddha sembrò ignobile l'anima senza pietà di Candada, che voleva uscire dall'inferno da solo e per castigo dovette tornare all'inferno. Ma il loto del laghetto del paradiso era ignaro di tutto questo. I bianchi fiori, simili a perle, ondulavano i calici ai piedi di Buddha e i pistilli color oro spandevano in continuazione un profumo delizioso. Anche in paradiso si avvicinava mezzogiorno. Gesù di Nanchino. Una tarda notte d'autunno a Nanchino, in una stanza di una casa sulla via Kibo, una pallida ragazza cinese era seduta sola davanti a un vecchio tavolo, sul quale appoggiava i gomiti, tenendo la testa tra le mani, mentre rosicchiava dei semi di cocomero che prendeva da un vassoio con aria annoiata. Sul tavolo c'era una lampada che spandeva appena la sua luce e rendeva più malinconica la stanza invece di illuminarla. In un angolo si trovava un letto di giunco con il baldacchino polveroso, dal quale usciva un lembo di coperta. Al di là del tavolo, una vecchia sedia, piantata là come dimenticata. Tranne queste cose, nessun altro mobile arredava la stanza. Quel fatto non importava molto alla ragazza. Ella ogni tanto smetteva di rosicchiare i semi e fissava gli occhi limpidi sulla parete dove era appesa una piccola croce di ottone sulla quale si vedeva una statuetta brutta di Gesù Cristo con le braccia spalancate in alto. Ogni volta che i suoi occhi cadevano sul crocifisso, per un attimo, dietro le lunghe ciglia, la tristezza scompariva. Ma quando toglieva lo sguardo di là, ella mandava fuori un lungo sospiro e si rimetteva a rosicchiare i semi uno alla volta. La ragazza si chiamava Kim Ka-so. Era una prostituta quindicenne che riceveva dei clienti ogni sera in quella stanza. Diversa dalle altre ragazze, ella passava le notti con i clienti senza mentire né essere capricciosa. Quando le capitava di ricevere una somma superiore a quanto stabilito, la dava volentieri al padre, che ormai era l'unico rimasto della famiglia, per fargli bere un po' di vino, che gli piaceva tanto. Quella primavera, un giovane turista giapponese venuto a Shanghai a vedere le corse all'ippodromo allungò il viaggio fino a Nanchino e passò una notte di piacere nella stanza di King. Vestito alla moda occidentale, la abbracciava tenendola sulle ginocchia mentre fumava un sigaro. Accortosi del crocifisso alla parete, chiese: «Sei cristiana?» «Sì, ho avuto il battesimo quando avevo 5 anni». «E fai questo mestiere?» «Se non facessi questo mestiere, mio padre e io dovremmo morire di fame». «È anziano tuo padre?» «Sì, neanche riesce a stare in piedi». «Però non ti viene il dubbio di non poter andare in paradiso continuando questo mestiere?» «No», disse, e guardò il crocifisso. Allora i suoi occhi si fecero seri e aggiunse: «Perché Gesù che sta in cielo, credo che mi capisca. Se no, egli è uguale a un funzionario di polizia». Il giovane fece un sorriso e, tirando fuori da una tasca un paio di orecchini di giada, glieli appese lui stesso. «Li ho presi per portarli in Giappone, ma te li regalo in ricordo di questa notte». A partire dalla notte in cui aveva ricevuto per la prima volta un cliente, King si affidava sempre al destino. Ma purtroppo da circa un mese la prostituta, seria, cattolica, era ammalata di sifilide. Saputo dell'accaduto, Sansa Chin le consigliò di bere il vino con l'oppio per fermare il dolore e un'altra le portò gentilmente i suoi avanzi di medicinali, ma pur essendo Kinka rimasta senza ricevere clienti, il suo male non dava segno di miglioramento. Un giorno Sansa Chin venne a trovare Kinka nella stanza e le parlò seriamente di una cura simile a una superstizione. «Hai preso la malattia da un cliente, perciò appena la scaricherai su qualcuno, nel giro di 2 o 3 giorni sarai certamente guarita». Kinka, con i gomiti appoggiati sul tavolo e la testa tra le mani, rimase perplessa. Ma forse, incuriosita dalle parole di Sansa, domandò: «Davvero?» «Sì, è vero. Mia sorella, che non riusciva a guarire dalla malattia, come te, appena la scaricò su un cliente, guarì. E il cliente, povero cliente, si dice addirittura diventò cieco». Quando Sansa se ne andò, Kinka rivolse lo sguardo al Gesù e si mise a pregare di cuore: «Gesù, Gesù dal cielo, faccio questo mestiere per mantenere mio padre, però non danneggio nessuno tranne me, che ne sono macchiata. Perciò credevo senza dubbio di poter andare in paradiso. Ora so che finché non scaricherò questa malattia su un cliente non potrò continuare a lavorare. Ma anche se non potessi più mangiare, cercherò di non andare a letto con clienti. Ma sono una donna e potrei cadere sempre in tentazione. Gesù, Gesù, Gesù del cielo, proteggimi, non ho nessuno tranne te a cui affidarmi». Kim Ka-so, sebbene Sansa le consigliasse di riprendere il lavoro, non si lasciava convincere. Anche quando i più affezionati clienti venivano a trovarla, non accettava il loro desiderio e al massimo fumavano una sigaretta insieme e poi confessava: «Porto una terribile malattia. Se mi avvicina sarà contagiato anche lei». Così i soldi si facevano più scarsi giorno dopo giorno. Anche quella sera ella era seduta. Dal pavimento di pietre, il freddo della stanza senza fuoco assaliva i piccoli piedi dentro le scarpette di stoffa grigia. Kinka, sognante, stava sotto la debole luce della lampada. A un tratto ebbe un piccolo brivido e, fregando un orecchio a cui era appeso l'orecchino di giada, sbadigliò lievemente. In quel momento si spalancò la porta. Entrò uno straniero, con passo incerto. Kinka Di scatto si alzò in piedi e fissò uno sguardo profondamente stupito sullo straniero. Egli aveva 35 o 36 anni. Aveva occhi grandi, la barbetta, le guance abbronzate. Non si capiva se fosse europeo o asiatico. Sembrava un ubriaco che avesse sbagliato casa. «In che cosa posso esserle utile?» chiese Kinka con voce aspra, mentre in verità aveva un po' paura. Egli agitò il capo per farle capire che non comprendeva il cinese. Poi disse una parola, straniera, melodica. Questa volta fu lei ad agitare il capo, facendo muovere gli orecchini nella luce della lampada. Quando egli vide che ella aggrottava le sue belle sopracciglia perplesse, scoppiò in una risata. Togliendosi il berretto, le si avvicinò con passo malfermo e cadde sulla sedia al di là del tavolo. Kinka ebbe l'impressione d'averlo visto prima, anche se non ricordava bene dove e quando, e provò per lui un senso di familiarità. Egli si mise a guardare Kinka insistentemente fino a quando ricominciò a parlare in lingua straniera con gesti bizzarri. Passare una notte con uno straniero che non conosceva il cinese non era insolito per Kinka. Si sedette di fronte a lui e si mise a raccontare, come d'abitudine, cose allegre che però egli non poteva capire. Tuttavia, di tanto in tanto, egli diceva qualcosa e rideva, contento. Il suo fiato puzzava di alcol e la sua faccia, piena di vita, era rossa tanto da far apparire più luminosa quella stanza miserabile. Egli era certamente più vigoroso di tutti gli uomini di Nanchino che ella era solita vedere, e degli uomini europei e asiatici che avesse mai conosciuto. Kinka non riusciva a liberarsi ancora dall'idea d'aver visto quella faccia prima. Guardando i riccioli neri che cadevano sulla sua fronte e sorridendogli dolcemente, si sforzava di farsi tornare in mente il giorno in cui lo aveva incontrato. Jesus don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. Lo straniero, sempre allegro, dopo aver riempito una pipa di tabacco, si mise a fumare, mandando fuori boccate di fumo dall'odore piacevole. A un tratto egli disse qualcosa, ma questa volta sogghignando, in silenzio, e portò una mano chiusa con due sole dita alzate davanti agli occhi di Kinka, facendo il cenno di «d'accordo?». Era chiaro per chiunque che due dita significavano $2. Ma ella, che aveva deciso di non andare a letto con il cliente, fischiettò abilmente con il seme nella bocca e sorridendo rispose no, facendo cenno col capo due volte. Allora egli appoggiò con arroganza i gomiti sul tavolo e avvicinò il viso di ubriaco verso di lei, fissandola. Poi alzò un altro dito, cercando la risposta nei suoi occhi. Egli sogghignava. Poi, dopo un momento di esitazione, alzò anche il quarto dito, insieme a qualche parola straniera. Kinka non aveva più nemmeno la forza di sorridere e decise di agitare il capo fino a quando egli avesse cambiato idea. Ma la mano dello straniero si era aperta tutta. Con le cinque dita quasi volesse afferrare qualcosa di invisibile e ci fu una lunga discussione tra i due a gesti. Egli continuava ad alzare ostinatamente le dita uno dopo l'altro e infine arrivò a offrire $10. Sebbene fossero una grossa somma per una prostituta, essa non poté cambiare la decisione di Kinka, che intanto si era alzata dalla sedia. Quando vide le due mani spalancate fu colta dall'ira e batté più volte i piedi, agitando ripetutamente il capo. Allora improvvisamente il crocifisso, con un piccolo tonfo metallico, cadde sul pavimento e allungò la mano e raccolse il suo prezioso crocifisso. Vide che la faccia della statuetta di Gesù era tale quale quella dello straniero al di là del tavolo. Era quella di Gesù, la faccia che ho avuto l'impressione di vedere. Pensò, portando la croce di ottone al petto, e di scatto alzò lo sguardo meravigliato sullo straniero. Jesus don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. Gli occhi di lui correvano tra il collo bianco gli orecchi di lei. A un tratto egli smise di fumare e, inclinando di proposito il collo, le rivolse qualche parola con una voce ridente che le procurò quasi lo stesso effetto che ottiene un ipnotizzatore quando parla agli orecchi del suo interessato. Ella, abbassando lo sguardo appena sorridente, si avvicinò al misterioso straniero con un po' di vergogna e accarezzando la croce. Egli mise una mano in una tasca dei pantaloni e agitò le monete d'argento guardandola compiaciuto con gli occhi sognanti. Quando nei suoi occhi il sorriso si trasformò in un bagliore febbrile, egli balzò dalla sedia e abbracciò Kinka stringendola al suo petto dove si sentiva odore d'alcol. Ella, come svenuta, abbandonando indietro la testa e gli orecchini, mentre il sangue le saliva alle guance pallide, con gli occhi estasiati, guardava la faccia di lui. Non era più in grado di riflettere su quanto stava per fare. Assalita dal desiderio, un vero piacere d'amore, conosciuto da lei per la prima volta, ella si lasciò prendere. Gloria, gloria, gloria, gloria. Dopo qualche ora nella stanza dove la lampada era spenta, arrivava soltanto il canto dei grilli che faceva sentire la malinconia autunnale, insieme ai respiri di quei due a letto, mentre il sogno di Kinka, lasciando il baldacchino polveroso, saliva in alto simile a un fumo lontano nel cielo con la luna e le stelle che sovrastavano il tetto. Kinka, seduta sulla sedia di palissandro, gustava vari piatti posti su un tavolo. A un tratto si accorse di qualcuno che si era avvicinato in silenzio dietro la sua sedia. Appena lo vide, lo riconobbe subito. Era quello che era venuto da lei quella sera, ma c'era una sola differenza. Un'aureola simile a una mezza luna era calata su di lui a una trentina di centimetri dalla testa. Allora, voltandosi appena, gli disse: «Non vuole venire al tavolo anche lei?» «No, no, mangia tutto tu, così guarirai prima di domani.» Lo straniero, con l'aureola sulla testa, sorrise con amore immenso. «Allora non vuole mangiare?» «Io detesto la cucina cinese.» «Ma non sai ancora chi sono?» «Sono Gesù Cristo e non ho mai assaggiato finora piatti cinesi», disse Gesù di Nanchino e baciò dolcemente una guancia di Kinka. Quando il sogno del paradiso sparì, la luce fredda dell'alba autunnale si stava diffondendo in tutta quella piccola stanza, ma nel letto, con il baldacchino polveroso tirato, era rimasto tuttora un buio tiepido. Gli occhi insonnoliti di Kink erano ancora chiusi. Il viso, un po' girato da un lato con il mento rotondo e sporgente, stava nascosto sotto la vecchia coperta stinta. Una ciocca di capelli era appiccicata, forse per il sudore della notte passata, su una guancia pallida e i piccoli denti, simili a chicchi di riso, si intravedevano bianchi tra le labbra socchiuse. Sebbene non avesse più sonno, con gli occhi chiusi continuava a vagare nel suo sogno. Man mano che nel baldacchino si faceva chiaro, ella andava rendendosi conto della spietata realtà. Su quel letto di giunco era stata portata dal misterioso straniero. Se lo avessi contagiato. Dopo un momento di esitazione, aprì intimidita gli occhi e guardò dentro il baldacchino. Tranne lei, sotto la coperta non c'era nessuno. Non lo straniero che assomigliava a Gesù sulla croce e neanche la sua ombra. Era un sogno anche lui. Buttò giù la coperta e si sedette sul letto, poi si sfregò gli occhi e, sollevando il pesante baldacchino, diede un'occhiata aggrinzita intorno alla stanza. «No, non era un sogno», bisbigliò, e si mise a pensare al misterioso straniero. Ella aveva avuto il timore che egli fosse andato via dalla stanza in silenzio mentre dormiva. Ma le sembrava impossibile, anzi, non voleva ammettere l'idea d'essere stata lasciata senza un solo addio da uno che l'aveva amata così ardentemente. Si ricordò anche di non avergli chiesto i $10. «È veramente andato via», pensò con il cuore pesante. Poi, improvvisamente, si immobilizzò. «Forse ella avrà sentito i passi dello straniero al di là della porta?» Il forte odore d'alcol rimasto sul cuscino e sulla coperta le fece per caso tornare alla mente una scena audace sul letto. No, ella si accorse che il miracolo aveva completamente guarito in una sola notte la sua sifilide così tenace. Egli era Gesù. Quando ella lo comprese, di colpo balzò dal letto in sottoveste e si mise a pregare, inginocchiata sulle gelide pietre del pavimento, simile a Maria Maddalena davanti a Cristo risuscitato. Elisabetta Piccolomini ha letto Akutagawa Ryunosuke, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.